come l'impressione che siate in tanti, sporchi lordi, arroganti. Ho come voglia di lanciare una bomba. Essere più tranquillo nel sonno, ma neanche tanto. In sogno, sogno le bombe in Parlamento. Pensiero vi trovo distanti, sporchi luridi, arroganti. Se cambia.